Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Terremoto, timori per il maltempo, in arrivo nel fine settimana, 22.700 scosse da agosto. Il governo approva il decreto, 11 milioni per la zootecnia, i comuni colpiti potranno assumere 350 persone. La Brexit, Juncker a May, rispettiamo il vostro ordine costituzionale, parte della stampa britannica attacca i giudici contro il popolo, lo UKIP chiede elezioni anticipate. Turchia, nuova ondata repressiva. Arrestati dei leader del partito filocurdo e a Diyarbakir, città a maggioranza curda, una bomba uccide 8 persone. Manovra a rischio correzione dei conti in primavera, secondo la CGIL, secondo i sindacati insufficienti, le risorse per i contratti della pubblica amministrazione. Si ricordano i 50 anni dall'alluvione di Firenze. Oggi l'ultima cena di Vasari torna nella chiesa di Santa Croce. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it se ci volete scrivere. Iniziamo dunque dal terremoto, dal decreto approvato questa mattina e dal quadro generale della situazione. Valeria De Rosa, buongiorno. Buongiorno a te Simone, ai nostri ascoltatori. Allora, il Consiglio dei Ministri questa mattina è durato pochissimo, solo 20 minuti, alle 10 meno un quarto era già tutto finito. Per avere invece il comunicato abbiamo dovuto attendere un po' di più, perché comunque si tratta di un decreto piuttosto delicato. Intanto il primo obiettivo che il governo sottolinea è quello di dare adeguata assistenza abitativa alle popolazioni colpite, dunque si dispone per l'acquisizione dei container e la sistemazione in aree adeguate, ovviamente tutto attraverso procedure molto trasparenti. Il nodo più delicato però era la definizione aggiornata del cratere del sisma. 62 sono i comuni inclusi nel decreto precedente, quindi quello relativo allo scorso terremoto di quest'estate, ai quali però devono aggiungersi i nuovi, che sono davvero tanti, essendosi ampliata l'area interessata a circa 600 chilometri quadrati. Il nodo è molto delicato perché all'aumentare del numero dei comuni aumentano anche i soldi necessari, e considerando anche che per il terremoto del 24 agosto sono state incluse anche le seconde case, questo ci fa pensare che ovviamente i soldi che saranno necessari saranno davvero tantissimi. Poi provvedimenti per l'agricoltura, la scuola e i beni culturali. Per sostenere il settore zootecnico sono stati stanziati da subito poco meno di 11 milioni di euro. Per quel che riguarda i costi, e qui torniamo ai soldi, una stima era stata fatta dal Ministero delle Finanze ed era pari a 6 miliardi. Il decreto precedente stanziava una cifra pari a 4 miliardi e mezzo. Staremo a vedere se questa cifra è stata in qualche modo ampliata oppure no. Il decreto legge intendeva snellire i tempi, le procedure e la burocrazia, e allora procedura semplificata per l'acquisizione delle strutture necessarie per le aziende, più poteri ai sindaci e anche in questo caso anche alla protezione civile, perché è stato deciso che si potrà assumere personale di tipo tecnico e amministrativo fino a un massimo di 350 persone. E poi per quel che riguarda la riparazione della rete stradale, per questo sarà disponibile l'ANAS su richiesta. Però a tutto questo ovviamente si aggiungono le condizioni di cui parlavi tu nei titoli, oltre alle scosse che continuano anche nel corso di questa notte, che ovviamente non rendono facile la conta dei danni, è in arrivo il maltempo, soprattutto le piogge, che andranno non solo a rendere molto più difficile per chi in questo momento sta vivendo nelle tende o comunque fuori dalle proprie case vivere e soprattutto passare la notte, le piogge andranno ad ingrossare i fiumi. Ricordiamo che per una frana il fiume Nera è esondato e quindi il rischio esondazioni si ripropone anche per i prossimi giorni. E grazie dunque a Valeria De Rosa per questo aggiornamento. Poi più avanti torneremo a parlare del terremoto. Stiamo cercando di rintracciare un ospite che dovremmo avere in diretta, che è il presidente di Federalberghi Perugia, per farci raccontare un po' qual è la situazione dal lato del turismo. Ovviamente le comunicazioni sono complicate e ovviamente queste persone in questo momento hanno molto altro da fare oltre che a rispondere ai giornalisti, anzi la loro attività principale ovviamente è un'altra. Parliamo di Brexit adesso. Juncker ha parlato con Theresa May questa mattina, hanno discusso della decisione dell'Alta Corte e il Presidente ha ribadito che la Commissione rispetta l'ordine costituzionale del Regno Unito, così conferma una portavoce, spiegando che non spetta a Bruxelles commentare un ritardo o meno della Brexit. Con tutta probabilità, la Premier britannica ha cercato di rassicurare la Commissione sul rispetto degli impegni presi, ovvero l'attivazione dell'articolo 50 per l'avvio automatico dell'uscita dall'Unione entro marzo 2017. Ciò nonostante ieri i giudici abbiano stabilito che il governo non può avviare i negoziati senza il via libera del Parlamento. Una vittoria della manager Gina Miller, mentre Downing Street ha già presentato ricorso alla Corte Suprema. Intanto c'è chi chiede di andare al voto e i tabloid popolari, che si erano schierati a favore della Brexit, usano toni durissimi contro i tre giudici, nemici del popolo, li definiscono Daily Mail e Telegraph. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo al fronte dei migranti. Il 2016 rischia di diventare l'anno con il più alto numero di morti in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa attraverso il Mediterraneo. Con i due naufragi avvenuti mercoledì scorso tra Libia e Italia, 240 le vittime, il numero delle persone che hanno perso la vita nel mar Mediterraneo dall'inizio dell'anno è arrivato a 4.220, molte di più delle 3.770 vittime di un anno fa, come fa notare l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Intanto, in Francia, dopo lo sgombero della giungla di Calais, è stato sgomberato oggi il campo dei migranti nel nord di Parigi. Una situazione indegna, la più grande che abbiamo mai conosciuto, ha detto stamattina il sindaco della capitale, Anne Hidalgo. 3.500 richiedenti asilo erano accampati in condizioni disperate. Lo sgombero è cominciato la mattina presto. I migranti, somali, sudanesi, afghani ed eritrei, sono stati trasferiti in 80 centri provvisori sparsi nella regione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo dunque a parlare di terremoto. Saluto Vincenzo Bianconi, che è presidente di Federalberghi Perugia, è nursino, quindi di Norcia, e proprietario di alcune strutture alberghiere nella stessa città. Buongiorno Bianconi, benvenuto. Buongiorno. Allora, prima di parlare con lei le voglio far sentire una voce. È una giornata fortunata, perché siamo tutti qui a parlarne, quindi siamo qui, una città da ricostruire, uno spirito da ricostruire, ci vorranno 10 anni, ma lo ricostruiremo. Per chi ha sentito le cronache di Radio 24, quel giorno del terremoto che ha colpito e distrutto una parte di Norcia, ha sentito che una delle prime voci che abbiamo raccolto, che l'ho raccolta io a Norcia, era esattamente la sua, Bianconi. A 5 giorni di distanza come si sente? Ci sentiamo ancora più legati alla nostra città, ci sentiamo carichi di voler ancora una volta rialzarsi in piedi, come abbiamo fatto 7 volte, perché Norcia è stata distrutta 7 volte negli ultimi 300 anni dei terremoti, e noi non vogliamo essere da meno dei nursini che ci hanno preceduto, e quindi stiamo lavorando in diverse direzioni per cercare anche di canalizzare tutta la grande solidarietà e gli aiuti che ci stanno arrivando da tutto il mondo. Il rischio più grande oggi è la dispersione delle risorse, perdere il focus su quello che può essere veramente utile. Bianconi, poi le chiederò un quadro più generale, ma innanzitutto voglio sapere come vanno le cose per lei. Beh, per me un me non esiste. Un singolo in una comunità come questa non è niente. Come famiglia le posso dire, siamo fortunati, i bambini sono vivi, i nostri alberghi, 2 hanno danni importanti, altri 2 no, ma quello che conta in un momento come questo è capire come ripartire, e la ripartenza parte dalle persone, perché Norcia è il luogo che è perché ci sono state le persone con dei valori che l'hanno saputo far crescere e diventare un luogo di ispirazione, un luogo di cultura, di rilassamento, di sport, di gastronomia, di misticismo, e senza le persone questo luogo non potrà mai più essere attrattivo. Senta, e poi l'ultima domanda che le voglio fare è interpellarla come presidente di Federalberghi della provincia di Perugia, perché qua il problema ovviamente è più largo, riguarda voi ma riguarda anche tutte le strutture della provincia che si sono svuotate improvvisamente nel momento nel quale c'è stato il sisma, ed è una provincia che vive molto sul turismo, e questo è un problema, sarà un problema anche farli tornare i turisti forse. Assolutamente sì, questo è un dato reale, sta soffrendo tutta la regione Umbria turisticamente parlando, e questo devo dire che è frutto un po' della psicosi che si registra in seguito a questi eventi. Ci sono cali oltre il 60% anche in zone veramente distanti dall'epicentro, che non hanno alcun motivo di ricevere questo tipo di calo turistico. Speriamo che presto tutti ci aiutino a rifare una corretta comunicazione e a rendere difficile e al momento non opportuna un rilancio del turismo nelle zone di Norcia e dintorni e della Valnerina, ma rendere assolutamente chiara la comunicazione rispetto alla quale tutto il resto dell'Umbria non ha problemi e può essere assolutamente visitato e vissuto, perché è un luogo magico, specialmente per questo Natale. La ringrazio, grazie a Vincenzo Bianconi, presidente di Federalberghi Perugia e proprietario, come avete sentito, insieme alla sua famiglia, di 4 strutture alberghiere a Norcia. Naturalmente in bocca al lupo a lei e a tutti quanti. Avete sentito anche il suo appello, sappiatelo, insomma, Norcia è stata danneggiata gravemente, come avete sentito, ma il resto dell'Umbria, il resto della provincia di Perugia non è in quelle condizioni, quindi è comprensibile un po' di paura, ma insomma fateci un pensiero anche per le prossime vacanze, per tenere in piedi questa regione e questa parte. Proseguiamo il nostro giro delle notizie e andiamo in Turchia. Un tribunale turco ha convalidato l'arresto del capogruppo del partito filocurdo HDP Idris Balüken, fermato nelle scorse ore con accusa di terrorismo insieme ad almeno altri 11 parlamentari. Balüken è il primo dei deputati ad essere formalmente arrestato, mentre per gli altri si attendono ancora le decisioni dei tribunali. E mentre stamani nella capitale curda della Turchia di Diyarbakir un'autobomba attribuita al PKK ha fatto vittime tra poliziotti e civili e numerosi feriti, nella notte si è verificato un blocco dei social network su tutto il territorio turco. Ora la situazione sta lentamente tornando alla normalità, con Facebook, Twitter e YouTube che hanno ripreso a funzionare, seppur ancora molto rallentati, così come i servizi di messaggistica di WhatsApp e di Instagram bloccati per la prima volta a livello nazionale. Intanto l'alto rappresentante UE Federica Mogherini in un tweet si dice estremamente preoccupata per gli arresti e afferma di aver chiesto una riunione degli ambasciatori dei paesi dell'Unione presenti nella capitale turca per valutare la situazione. Il Ministero degli Esteri tedesco invece ha confermato la convocazione dell'incaricato d'affari turco in reazione agli arresti. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Gli aggiornamenti dalle zone nelle quali è presente l'ISIS. Innanzitutto, una trentina di miliziani in Iraq ha compiuto un'incursione nella città di Shirkat, 100 km a sud di Mosul. Si sono barricati in una moschea e hanno attaccato un centro delle forze di sicurezza prima di essere poi sopraffatti. Nel frattempo, le forze speciali irachene rendono noto di aver iniziato l'assalto ai quartieri più urbani di Mosul partendo dalla parte est. In Siria, invece, ad Aleppo è entrata in vigore la tregua umanitaria di 10 ore dichiarata dalla Russia, la cui aviazione bombarda da settimane il settore della città siriana in mano ai ribelli a sostegno dell'offensiva del regime di Bashar al-Assad. La precedente tregua umanitaria, durata 3 giorni, era fallita nell'impossibilità di evacuare feriti e civili. Andiamo a Parigi, riapre il Bataclan. Con il concerto di Sting, il prossimo 12 novembre il Bataclan di Parigi riapre finalmente alla musica. L'immagine del locale nell'undicesimo arrondissement parigino si trasforma dunque da simbolo dell'orrore della strage a quello della vita, e cambia anche la sua facciata, ora dipinta di bianco con una scritta stilizzata e regolare a caratteri rossi. Gli echi degli spari e delle urla di quella terribile notte sembrano ancora vicini. La sera del 13 novembre 2022 2015 nel corso degli attacchi terroristici a Parigi rimasero uccise 130 persone, 93 solo al Bataclan. Molti di loro erano giovani che assistevano al concerto del gruppo di rock Eagles of Death Metal. Solo poche ore dopo le stragi il suo proprietario Dominique Revert disse: riapriremo e non ci arrenderemo mai. Così è avvenuto, e per la sua riapertura al Bataclan ha pensato all'ex leader dei Police, Sting. Chissà se le sue canzoni così ottimiste e impegnate sul piano civile possano ridare speranza ad una città colpita nel cuore della sua convivenza. Così dunque Daniele Biacchessi, siamo alla politica, iniziando soprattutto dalla manovra. Sono in corso una serie di audizioni, sentiamo Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. La scorsa settimana, Simone, le audizioni sul decreto fiscale, oggi quelle sulla manovra. Ad intervenire in Commissione Bilancio, Associazione Bancaria, Enti Locali ed ancora Confedilizia, ANCE, Confindustria e Sindacati. Tra breve sarà la volta del Ministro dell'Economia Paduan. La manovra, spiegato dall'ABI, il Direttore Generale Signorini, contiene un giusto mix tra il percorso di risanamento e il rilancio della domanda interna e degli investimenti. Si può fare di più, invece, il commento dei rappresentanti dei lavoratori che puntano il dito sulle risorse per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione. Sono insufficienti, dicono CGIL e CISL e UIL. C'è il rischio di una manovra bis in primavera, spiega in particolare la CGIL. Sentiamo allora il segretario generale Barbi. Il giudizio che noi diamo è che la legge di bilancio non corrisponde affatto all'urgenza, alle necessità della condizione sociale del Paese. Quindi dal nostro punto di vista il nostro giudizio generale è critico. Non serve a rimettere in moto veramente il Paese, a ridurre le diseguaglianze che sono fortemente aumentate, a ricreare occupazione giovanile, femminile e soprattutto al Mezzogiorno. Questa dunque la posizione della CGIL. C'è un problema di tenuta degli enti locali, dicono invece le regioni, che chiedono al governo una quota di utilizzo dell'extra deficit. E proprio di questo parlerà il ministro dell'economia. Ci si aspetta da Paduan una difesa delle richieste avanzate a Bruxelles su ricostruzione terremoto e migranti. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. A chiudere questa prima parte ci occupiamo di referendum con Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora, stavolta il Quirinale ad intervenire sul possibile rinvio della data del voto. Secondo le indiscrezioni, il capo dello Stato Sergio Mattarella avrebbe manifestato stupore, sorpresa e scetticismo per un suo possibile coinvolgimento. Il Presidente della Repubblica infatti si è sentito chiamato in causa ingiustificatamente. Insomma, Mattarella non si fa tirare per la giacca. Nel centrodestra invece parla Silvio Berlusconi, che ribadisce la piena collaborazione di Forza Italia con il governo per quanto riguarda il terremoto, ma continua a dire un no secco al referendum, sottolineando di essere fiducioso che gli italiani non permetteranno a questo esecutivo di trovare quella legittimazione che non ha avuto voto popolare. E l'ex cavaliere lancia anche la campagna per il no. Sul fronte del sì invece il premier Matteo Renzi parla di un'incredibile accozzaglia dei no unita dall'odio verso di lui. Stasera poi il via a Firenze alla Leopolda. A te Simone. Grazie dunque Elisabetta Fiorito, e anche di referendum, ma non solo di quello, torneremo a parlare tra un attimo, lo faremo col vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Traffico. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di terremoto e del decreto varato questa mattina dal governo, abbiamo parlato di Brexit, della nuova ondata repressiva in Turchia, abbiamo parlato della manovra. Adesso ritorniamo a parlare di politica e lo facciamo con Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Di Maio, benvenuto. Buongiorno a voi. Mi veniva da dire leader in pectore, ma so che si offende se glielo chiedo. Sì, ma lasciamo stare. Allora speriamo che tenga la linea, perché sento che si sente malissimo. Ma dov'è? È in un posto dove evidentemente non prende il cellulare. Va bene, va bene. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperare Di Maio molto rapidamente. Deve essere chissà dove. Se non sbaglio, oggi avevo visto dalle agenzie che era in visita da qualche parte, all'Aquila, forse al Gran Sasso. Vediamo. L'abbiamo? No. non ce l'abbiamo. Va bene, allora vediamo se riusciamo a recuperare Di Maio nel corso della puntata. Intanto facciamo così, che andiamo a sentire questa intervista che ha realizzato Katia Caramelli con Monsignor Rino Fisichella. Beh, si è parlato molto in queste ore di quello del giubileo, no? E del fatto che qualcuno ha lamentato è andato male, soprattutto per Roma. Di questo ha parlato Katia Caramelli con Monsignor Fisichella, che ha curato la macchina organizzativa, con quale ha parlato anche di giubileo dei carcerati e della prossima settimana quello delle persone emarginate che vanno a chiudere quest'anno di celebrazioni. I pellegrini che hanno partecipato a tutti gli eventi del giubileo fino a oggi sono più di 20 milioni. Affermiamo questo con un pizzico di soddisfazione, perché come si sa il giubileo era iniziato con grande entusiasmo, ma interrotto anche da grandi paure che sono circolate in tutta Europa. Ecco, a fronte delle polemiche sollevate da chi dice che il giubileo è stato un flop, oltre a questi numeri c'è anche da sottolineare il fatto che c'era la particolarità di Porte Sante aperte in tutto il mondo. Questo giubileo aveva e mantiene ancora delle caratteristiche particolari che lo rendono unico nella storia dei giubilei dal 1300 ad oggi. Però ci sono anche delle polemiche che sono molto sterili. Chi parla di un flop è sempre e soltanto un'associazione degli albergatori. Ora, che si giudichi la vita di un paese o che si giudichi l'avvenimento così importante come un giubileo alla luce soltanto degli albergatori mi sembra che sia alquanto riduttivo. Ci sono stati tanti momenti significativi, ma ne mancano ancora due molto importanti. Il primo, il giubileo dei carcerati. Per la prima volta il giubileo consentirà a dei detenuti di essere presenti in San Pietro, di attraversare la Porta Santa. Ed eccoci qua, abbiamo recuperato Luigi Di Maio, credo, speriamo che la linea regga. Di Maio, allora di nuovo buongiorno, la prima cosa che le voglio chiedere è questa: oggi il governo ha varato un decreto, è chiaramente un decreto preliminare che serve a, per così dire, a dare i primi aiuti, 350 assunzioni a tempo determinato possibili per i comuni, soldi per la zootecnia e poi, come dire, arriveranno evidentemente provvedimenti più ampi. Su questo fronte siete disposti a collaborare come chiede il Presidente del Consiglio? Guardi, se vengono rispettati dei principi base in questo decreto, cioè massima trasparenza, ogni euro speso ci dicono come viene speso, se vengono ascoltate le comunità di cittadini senza calare dall'alto le decisioni e se allo stesso tempo i soldi ci sono, perché dobbiamo capire ancora questi soldi, se l'Unione Europea li sblocca, se vengono utilizzati, come vengono appostati, noi siamo disponibili a collaborare, perché qui il tema non è stare con Renzi o contro Renzi, ma stare con i cittadini di quelle comunità. Quindi l'obiettivo nostro è quello di fare il meglio per i cittadini di quelle comunità, per le imprese di quelle comunità. L'unica cosa è non si facciano giochi di prestigio con i fondi per il terremoto. Che cosa intendo? Che per ora ci sono appostate centinaia di milioni, servono miliardi e dobbiamo capire quando verranno appostati e come. Lui parla addirittura di 6 miliardi, il Presidente del Consiglio, e se l'Unione Europea li sbloccherà. Quindi sì, senta Di Maio, Di Maio, su questo fronte Renzi ha detto abbastanza chiaramente: se Bruxelles non li sblocca, la dico brutale, chi se ne frega, li sblocchiamo lo stesso. Siete disposti a sostenere una battaglia di questo genere? Questa è una battaglia che noi abbiamo chiesto a Renzi di fare tante volte, anche non solo sui soldi, ma anche per esempio su quello che riguardava i trattati UE Marocco e UE Tunisia che hanno massacrato le nostre imprese agricole. Quindi sulla questione della battaglia di un'Unione Europea che debba servire per lo sviluppo e non per l'austerity, noi siamo sempre stati, abbiamo sempre portato avanti questa cosa. Però voglio vedere se Renzi fa sul serio, perché io non so se il Presidente del Consiglio, siccome in questo momento storico va di moda andare contro l'Unione Europea, sta facendo più slogan che fatti. Io voglio i fatti, i fatti si devono fare prima di tutto per i nostri cittadini delle aree terremotate. Sul fronte del referendum, Di Maio, allora, vorrei capire da lei innanzitutto se secondo lei è possibile una piazza comune, manifestazioni comuni di tutto il fronte del no oppure no, compresi voi naturalmente. Ma io questa cosa in questo momento la escludo, il Movimento 5 Stelle è una forza politica che porta avanti questo tema dall'inizio, l'ha sempre portata avanti, quello del fermare queste riforme e del bloccare una legge elettorale incostituzionale, e per questa ragione noi andiamo avanti con la nostra campagna per il no. Poi questo è un referendum, ci sono quelli per il sì e quelli per il no, ma sia tra quelli per il sì sia tra quelli per il no c'è bisogno di credibilità. Noi crediamo di avere la nostra credibilità e andiamo avanti in questa direzione e soprattutto senza dimenticare i problemi seri del paese. Io in questo momento sto andando ad Avezzano, dove c'è una fabbrica, la Vesuvius, che sta chiudendo. Stamattina sono stato al laboratorio del Gran Sasso, dove ci sono tanti ricercatori da tutto il mondo che vengono qui in questa eccellenza. Oggi pomeriggio ancora incontrerò un'altra azienda che è stata acquisita dai cinesi e sta cambiando la sua politica industriale in Italia e non va bene. Quello che io dico è semplicemente una cosa: chi vuole sostenere il no lo sostenga, però il fronte del no, come il fronte del sì, è fatto da tante persone, da tanti elementi e da tante entità. Noi siamo il Movimento 5 Stelle e non è che siccome nel no ci sono D'Alema o c'è Berlusconi, qualcuno deve pensare che stiamo con D'Alema o con Berlusconi. O con Forza Nuova, ipoteticamente, insomma. No? O con i partigiani, invece, a me fa piacere starci. Per esempio, l'AMPI è schierata per il no, l'Associazione Nazionale Partigiani, e a me fa piacere stare con loro, per esempio. Ma questo non significa che stiamo con i partigiani perché stanno col no, stiamo con i partigiani perché è a prescindere, dice lei. A prescindere. Sì. E quindi questo lo dico perché poi si usa strumentalmente, nel no ci sono D'Alema, Berlusconi o Forza Nuova, ci sono anche l'Associazione Nazionale Partigiani, ci sono tante associazioni e comitati che si occupano di ambiente schierati per il no, quindi su questo. Senta Di Maio, proprio a proposito del referendum e delle riforme costituzionali, io c'è una cosa che non ho capito, ma voi siete a tutela della Costituzione esistente così com'è e così deve rimanere o siete a favore di una riforma magari di un altro tipo, anzi evidentemente di un altro tipo visto che quello che sostenete? È ovvio, prima di tutto, che la Costituzione della Repubblica si possa cambiare, per noi non è che è intoccabile, si può cambiare, si possono fare delle modifiche, per esempio io abolirei l'immunità parlamentare che salva alla galera ormai parlamentari per reati che non c'entrano niente più col mandato elettorale, abolirei o mitigherei la norma che riguarda i cambi di casacca. Io faccio parte della legislatura col più grande cambio di casacca della storia della Repubblica, nella prima Repubblica erano più virtuosi e più rispettosi del mandato elettorale dei cittadini che in questo momento storico, quindi ci sono delle modifiche da fare. L'unica cosa che a me non va è che si voglia spacciare questa riforma costituzionale, quella Boschi, Renzi, Verdini, per una riforma che cambia in meglio il paese. Questa riforma lo cambia il paese, ma in peggio, perché dopo che ci hanno tolto il diritto di votare per le province, per le città metropolitane e per la Camera ai nostri rappresentanti, perché l'Italicum scimmiotta il porcellum con i capilista bloccati, adesso con questa riforma ci impediscono anche di votare. Era meglio abolirlo del tutto il Senato, dice lei. Ma anche perché quella era lo slogan, se si ricorda. Lei sarebbe favorevole, voi sareste favorevoli all'abolizione completa del Senato. Io sono dell'idea che il Senato non debba più dare la fiducia al governo, ma il fatto che una legge prima di essere approvata debba passare tra Camera e Senato ha impedito in tutti questi anni un sacco di strafalcioni e di leggi ingiuste per le imprese e per i cittadini. Però se si doveva mettere mano al Senato in questo modo è meglio abolirlo che realizzarlo così, cioè realizzare un Senato che noi non possiamo più votare come cittadini, ma in cui vanno consiglieri regionali e sindaci a prendersi l'immunità parlamentare, quella classe politica che ha già governato la nostra sanità, ha già governato i nostri trasporti e i risultati li vediamo sui nostri territori e sono i risultati degli ultimi 10 anni di malamministrazione. Un ultimo paio di domande, secondo lei regge la giunta Raggi? Perché ho visto che c'è qualche problema anche interno tra voi, o almeno questo è quello che abbiamo letto, per carità. No, per me la giunta Raggi regge e abbiamo una grande impresa, quella di rimettere in sesto una città in macerie che è la capitale, una città che però qualche spaccatura c'è, mi è sembrato di capire, tra i vostri romani, sono differenze di veduta, ben vengano, perché siamo la prima forza politica del paese ed è logico che qualcuno la pensi diversamente da un altro, ma non parlerei né di spaccature né di correnti, perché queste sono cose che sono state dette ma non appartengono al Movimento 5 Stelle alla sua storia. Grillo e Renzi si devono confrontare in TV sul referendum, secondo lei? Beh, Grillo ha già risposto a Renzi, adesso Renzi si venga a confrontare con noi parlamentari che abbiamo presentato in questi anni le proposte di modifica alla sua riforma. Vede, noi andiamo a votare sì o no per una riforma che poteva essere diversa. Io avevo presentato un emendamento a questa riforma che aboliva i vitalizi per legge costituzionale e quindi non esisteva più il diritto acquisito dei vitalizi. Renzi l'ha bocciato, come tante altre proposte. Quindi si venga per esempio a confrontare con me. perché non si vuole confrontare sui temi reali del paese che questa riforma non risolve? Bisogna votare no il 4 dicembre, perché l'unica cosa che farà questa riforma è creare una nuova casta, ma non risolverà il problema della disoccupazione, i problemi legati agli investimenti, i problemi legati allo sviluppo delle piccole e medie imprese. Grazie Luigi Di Maio. Arrivederci. Vicepresidente della Camera, per essere stato con noi. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede in borsa e poi torniamo alla parte tradizionale della trasmissione, il nostro giro per l'Italia. Inizieremo da Firenze, dove si ricordano i 50 anni dall'alluvione, e poi parleremo di Venezia, dove si sta, si è parlato molto in queste ore di numero chiuso per i turisti. Vediamo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri titoli: il terremoto, timori per il maltempo in arrivo nel fine settimana, il governo approva il decreto, tra l'altro sono varati 11 milioni per la zootecnia. Brexit, Juncker a May, rispettiamo il vostro ordine costituzionale, parte della stampa britannica attacca, giudici contro il popolo. In Turchia nuova ondata repressiva, arrestati dei leader del partito filo curdo. Manovra a rischio correzione dei conti in primavera, secondo la CGIL. La borsa... Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Allora, stamattina l'abbiamo fatta svegliare alle 5:30 perché ha sostituito Alessandro Milan in 24 mattino. Ha fatto la rassegna stampa, dopodiché ha preso un treno e è andata a Firenze per i 50 anni dall'alluvione. Giulia Crivelli, ciao, buongiorno. Buongiorno. Una forzata di Radio 24 oggi. Allora, raccontaci che cosa succede, soprattutto dal punto di vista artistico, al di là, come dire, del ricordo, gli angeli del fango, l'alluvione, insomma, è tutto quello che possiamo dirci. Qui fa molta impressione, perché io sono proprio sull'Arno ed è a livelli normali, ma bisogna chiudere gli occhi e pensare che in questo stesso momento, 50 anni fa, c'erano 5 metri di acqua, l'Arno era esondato e l'epicentro di questa alluvione venne riconosciuto proprio in Santa Croce, nel cenacolo di Santa Croce, perché non c'è solo il cenacolo di Milano, cioè c'era anche il refettorio dell'oratorio di Santa Croce. Lì c'era questo splendido dipinto del Vasari del 1546, un'ultima cena, di nuovo non l'ultima cena che conosciamo a Milano, un'altra ultima cena, e fu completamente rovinato dall'alluvione. Per 40 anni lo diedero per perduto, un restauro impossibile, e invece negli ultimi 10 anni si è lavorato a questo restauro e proprio oggi simbolicamente verrà svelato. Questo anche grazie, mi sembra di aver capito, grazie anche a privati che sono intervenuti per il restauro, no? Sì, perché per darvi un'idea è un lavoro costato poco meno di 1 milione di euro. 350.000 euro li ha messi Prada, che è il più grande gruppo della moda italiano, con un fatturato superiore ai 3 miliardi. Poi c'è la Getty Foundation, che è americana ma ha fatto tantissimi interventi qui in Italia, e questo dovrebbe dirci molto, il fatto che gli americani salvino il nostro patrimonio culturale e artistico. E poi altri 150-200 li ha messi la Protezione Civile, e questa è una cosa interessantissima oggi che parliamo tanto dei danni causati dal terremoto al patrimonio artistico, perché la Protezione Civile, a partire dalla metà degli anni 90, ha questo dipartimento dedicato proprio al recupero dei beni culturali, quindi mi sembra che tante delle polemiche che sono state fatte in questi giorni sono anche un po' inutili, cioè c'è gente che queste cose sicuramente è già al lavoro per portarle avanti, progetti di recupero, quindi è anche un segnale davvero molto simbolico che succeda oggi, e che mentre dall'altra parte, a pochi chilometri tutto sommato da qui, ci sono appunto gli effetti del terremoto. E grazie a Giulia Crivelli in diretta da Firenze. E quel giorno ci fu anche l'acqua granda, il momento nel quale la marea a Venezia raggiunse i 194 centimetri, la rilevazione più elevata mai registrata dal mareografo di Punta della Salute. Ed è proprio con Venezia che ci colleghiamo, e con Paola Marr, che è l'assessore al turismo. Buongiorno, assessore. Buongiorno a tutti. Ma per parlare in realtà d'altro, perché Venezia è stata presa letteralmente d'assalto nello scorso fine settimana nel lungo ponte, e mi sembra di aver capito che si è addirittura iniziato a pensare a fare il numero chiuso? Bene, allora, presa d'assalto sicuramente, ma dobbiamo, lei ha ricordato, sentivo prima che parlavate anche degli interventi della Protezione Civile, che con le prime scosse del 26 ottobre tutto il centro Italia come destinazione è saltata nella percezione sia degli italiani che dei turisti stranieri, quindi era un evento quasi prevedibile da determinati punti di vista. Per quanto riguarda il percorso che si sta compiendo a Venezia, per la prima volta abbiamo istituito un percorso di commissioni consigliari aperto a tutta la cittadinanza, con la Presidente della Commissione Consigliare Giorgia Fea, per ascoltare quali sono le proposte di tema di gestione dei flussi di tutti coloro vogliano metterci la faccia. Io credo che questo sia un percorso che andremo ad affrontare, che stiamo già affrontando, che si concluderà per la fine dell'anno e poi prenderemo delle decisioni. Però questa è tra le ipotesi, cioè il numero chiuso è tra le... ricordiamolo, non è che è una follia, perché ci sono posti nel mondo nei quali c'è il numero chiuso esattamente per la delicatezza che hanno, per esempio dal punto di vista naturalistico, in questo caso dal punto di vista artistico, culturale e anche ambientale, evidentemente. C'è questa ipotesi, insomma, non è escluso. Guardi, noi più che per numero chiuso siamo per il numero controllato, però in questo momento non deve, oltre quelli che sono i miei compiti di assessore. Sì, che differenza c'è? Ce lo spiega tecnicamente. Che differenza c'è tra numero chiuso e numero controllato? Allora, numero chiuso, io devo chiudere, decido di chiudere la città. Numero controllato, noi decidiamo di capire quali sono i flussi, perché ci sono chiaramente delle giornate in cui ci sono più turisti, come è successo lo scorso weekend, e delle giornate in cui ci sono meno turisti. Ci sono varie, durante il percorso consigliare stiamo percependo varie idee a riguardo, però il primo punto secondo me è di riuscire a contarli, perché non possiamo parlare né di numero chiuso né di numero controllato se non sappiamo quanti ne arrivano. È dura contare i turisti che arrivano a Venezia, assessore. Ma posso dirle una cosa, intanto noi abbiamo dei numeri seri che facciamo ogni anno, che sono i numeri dei turisti che si fermano in città, questi sono numeri accertati e sono 4 milioni e mezzo circa di arrivi per un 10 milioni e 125 mila di presenze, cioè un turista di solito si ferma due notti e 26. Di questi 1 milione e mezzo arriva a Mestre, quindi voglio dire, Mestre si configura anch'essa come città di destinazione turistica. Sì. Dopo è chiaro, la problematicità risiede nei mordi e fuggi. Cioè in coloro che vengono a vedo che il sindaco, molto brevemente, vedo che il sindaco oggi in un'intervista alla stampa dice quelli mordi e fuggi potrebbero pagare una tassa più alta, anche questa potrebbe essere un'ipotesi interessante. Sì signori, i mordi e fuggi in questo momento non pagano nulla, mentre coloro che invece pernottano in città pagano la tassa di soggiorno. Certo. Quindi da questo punto di vista è corretto che chi anche viene un giorno e usa la città, e quindi a cui dobbiamo far fronte con dei servizi tipo la pulizia, perché pulire Venezia non è proprio così semplicissimo, così semplice, sì, certo. E i trasporti contribuiscano quantomeno a quello che è la gestione e la manutenzione di una città così delicata. Allora, la ringrazio, grazie a Paola Mar, assessore al turismo del Comune di Venezia. Ci fermiamo, traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.